Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà con Alvise e con una nuova puntata di Overbooking. Partiamo subito salutando Lele, che è un po' la mia sposina e mi accompagna in tutte queste puntate aiutandomi dietro ai macchinari, e Matteo, che continua a coautorare con me questo programma che parla di libri e ne presenta uno per volta. Ora, questa sera la grande novità è che abbiamo un ospite. L'ospite in questione è Ferdinando Morgana. Potessi farei un applauso, ma diciamo che sono da solo, e anzi le persone che sono qua con me comunque sono abbastanza discutibili, non sanno applaudire. Ferdinando, per gli amici Nando, chi è Ferdinando Morgana? Ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Ma chi è? Una brava personcina. Il termine tecnico credo sia, se non fosse abbastanza ridicolo, aspirante scrittore. Seguo i corsi di scrittura a Torino alla Scuola Holden, che cerca di farci entrare qualcosa in zucca. E si cerca di pubblicare, si cerca di scrivere e si legge molto. Scuola Holden, che per i non preparati sull'argomento è una scuola appunto di Torino tenuta, o meglio, sì, gestita da chi? Sì, il preside è Baricco e i docenti sono romanzieri, scrittori, insomma di fama, insomma, cercano di insegnarci qualcosa noi zucconi, e vediamo se riusciamo a migliorare nell'arte dello scrivere. Bene, e per questo motivo noi ti abbiamo scelto. Sono molto contento di questo, grazie mille. E come per due puntate Nando sarà qui con noi e ci presenterà dei libri a sua scelta. Per questa prima puntata ha scelto una raccolta di racconti che si chiama Sì, il titolo è Burnt Children of America. La mia pronuncia è sempre pessima, spero la tua sia migliore, anzi, la sicuramente. È una raccolta curata da Minimum Fax, un editore che segnalo a tutti perché sta veramente Assolutamente sì. diventando, sì, nel panorama italiano, soprattutto per la narrativa dei giovani, degli esordienti italiani, sta diventando un punto di riferimento. Ed è un'antologia creata da Marco Cassini e Martina Testa. Burnt Children of America raccoglie una quindicina di racconti tra i migliori scrittori americani sotto i 40 anni. Ne sono uscite due versioni, una nel 2001 e una seconda ampliata con una bellissima introduzione di Zadie Smith e un racconto originale di Jonathan Safran Foer nel 2009. Quindi, se possibile, cercate quest'ultima perché è molto più ricca, molto più bella. Io posso dire di aver quasi letto quella del 2001, nel senso, io posso anche averla letta, ma diciamo che i miei ricordi sono quelli che sono, però punto molto su di te. Ti ringrazio. Quello che posso dire innanzitutto è che appunto ci saranno diciamo una decina, quindicina di autori, alcuni sono molto titolati, altri lo sono molto meno, cioè sono dei perfetti sconosciuti, almeno lo erano nel 2000 per il panorama europeo. E Esatto. questo secondo me è una delle prime cose di cui si può parlare di questo libro, ossia ad autori che comunque avevano un passato anche sulla stessa Minimum Fax, che potete andare a Sì, recuperarvi per esempio tranquillamente. David Foster Wallace. Esattamente, altri sono dei newcomers in un certo senso, ossia sono molto probabilmente hanno delle pubblicazioni minori negli Stati Uniti, però erano abbastanza Sì, nuovi per la scena europea. quasi degli esordienti, soprattutto in Italia, ecco. Per esempio, sono dei nomi molto importanti come dicevamo prima, Wallace, oppure come Dave Eggers, o come Ann Holmes, della quale poi leggeremo qualcosa, che era famosa per il libro La sicurezza degli oggetti, cui è uscito anche un film, Eugenide, di cui è molto celebre Middlesex, che ha vinto anche un premio Pulitzer, però ce ne sono moltissimi altri che sono meno celebri. La bellezza di questa raccolta è proprio la freschezza di questa raccolta, è quella di aver introdotto questi autori al pubblico italiano. Se posso chiederti, farti una prima domanda sui temi che tratta il libro, vedi un filo conduttore tra i vari, racconti o ne possiamo immaginare uno in qualche modo? Beh, già il titolo, questo Burnt Children of America, che può ricordare sia, che poi è diventato anche una definizione per un certo tipo di pubblico e un certo tipo anche di autori, questi figli bruciati, bruciacchiati dell'America, questi figli che hanno superato gli anni 80, gli anni 90, portandosene addosso un po' tutte le stigmate. Già questo è un primo fil rouge. E poi soprattutto direi che è una raccolta di autori abbastanza freschi, quasi postmoderni, poi lo vedrete anche in quello che leggiamo, hanno un approccio con la realtà estremamente innovativo. Infatti la bellezza di questa raccolta, il motivo per il quale la consigliamo oggi, è che c'è un approccio alla letteratura e anche allo sguardo sulle cose completamente nuovo, completamente diverso. Poi, appunto, come dicevo prima, lo vedremo dagli estratti che leggeremo. La realtà viene proprio vista in maniera completamente giocosa, nuova, e anche quando ci sono degli sguardi un po' negativi sul futuro o critici sul presente, c'è sempre una vena di ironia molto forte. Benissimo, allora prima di andare a leggere qualche passo, come facciamo sempre, di questo Burnt Children of America, andiamo a sentirci il primo pezzo in scaletta per questa sera. Questa è Regret e sono in New Order. Yeah. E ben ritrovati sui 102.2 di Radio Sandonà, ancora con Alvise, ancora con Overbooking. Prima di procedere con la nostra lettura di questa sera, vi ricordo i contatti per intervenire in trasmissione. Potete farlo innanzitutto telefonando allo 0421 560993 oppure faxando al 560994, sempre preceduto dallo 0421. Altrimenti, nel caso non abbiate né un telefono né un fax e abbiate una connessione internet, scriveteci a radio@radiosandona.it. Nella malaugurata ipotesi che non abbiate neanche una connessione internet, suonate al nostro citofono qui sotto, che è in via Cesare Battisti 62 a Sandonà di Piave. Volevo poi ricordarvi che questa trasmissione ha anche un suo blog, in cui vi teniamo aggiornati più o meno con tutto quello che riguarda i libri che andiamo a presentare volta per volta, ma anche altre attività di cui ci occupiamo un po' come radio, un po' io, Matteo, Daniele, come diciamo tra virgolette conduttori di questa cosa. Il nome del blog è bloverbooking.wordpress.com. Molto semplice, andate e visitateci se volete. Bene, noi torniamo a parlare di Burned Children of America e come detto prima, è una raccolta di racconti e sembra bello farvi sentire qualcosa a riguardo. Che cosa abbiamo scelto per cominciare? Allora, abbiamo scelto l'inizio di uno dei primi racconti, è di Judy Bunitz, si intitola I giorni del cane, è un racconto veramente meraviglioso, nel quale in un prossimo futuro una famiglia americana media viene viene a trovarla un cagnolino, cioè questo cagnolino che viene a trovare questa famiglia, però non è un vero e proprio cane, ma è un uomo, un signore vestito da cane, e questa famiglia alla fine, chissà, forse potrà anche adottarlo. Vediamo cosa faranno con questa persona. Bellissimo, allora andiamo a sentire il primo pezzo, appunto, tratto da questo racconto. L'uomo col vestito da cane mugola fuori dalla porta. «Di nuovo», sospira mia madre. «Dov'è la mia pistola?», dice mio padre. «Stavolta lo sistemiamo come si deve», dice mio fratello maggiore. Escono. Sentiamo le urla e lo scalpiccio e i guaiti mentre l'uomo si allontana a carponi per la strada. Mio fratello rientra. «L'abbiamo sistemato», dicono, fregandosi le mani. «Maledetto schizzato», grugnisce mio padre. Ma il giorno dopo ritorna. Il vestito da cane è mal ridotto, la cerniera lampo non c'è più. Il davanti è tenuto insieme con qualche spilla da balia. Sembra un bastardo spelacchiato, ha la lingua piatta e rosa come una fetta di mortadella. Mi guarda ansimando. «Mamma!» grido. «È tornato!» Mia madre sospira, poi viene alla porta e lo guarda. Lui drizza la testa verso di lei. «Oh, guardalo, sembra affamato!» dice mia madre. «Sembra triste!» Io dico. «Puzza!» «Non ha il collare», dice mia madre. «Deve essere un randagio». «Mamma», dico, «è un uomo con un vestito da cane». Lui si mette a sedere e fa l'aria implorante. Mia madre non mi guarda, allunga una mano e accarezza la testa dell'uomo. Lui batte le palpebre e le fa gli occhi dolci. «Vai a prendere un piatto», mi dice. «Vedi un po' cosa riesci a ripescare dall'immondizia». «Papà si arrabbierà», dico. «Tu fallo e basta», dice lei. E io obbedisco, perché non ho scuse, non ho nient'altro da fare, non c'è scuola, non c'è niente. Non ho nessun posto dove andare. La gente non esce più di casa, stanno seduti, sbirciano fuori dalle finestre e aspettano. Fuori c'è il silenzio assoluto, niente grilli, niente cavallette. Torno alla porta e lascio il piatto sugli scalini della veranda. Io e mia madre guardiamo l'uomo affondare la faccia in quegli avanzi luridi. Pulisce il piatto con la lingua e alza gli occhi verso di noi. «Bravo cagnolino», dice mia madre. «È un uomo», dico io, «un ritardato fuori di testa». Lui si appoggia contro la gamba di mia madre. Mia madre non mi degna di uno sguardo. «A tuo padre non dire una parola, Lisa», dice, poi rientra in casa sbattendo la porta. Mi siedo sugli scalini. L'uomo sta accucciato accanto a me. Ha un odore sporco e dolciastro, come l'immondizia in un giorno di caldo torrido. Ha gli occhi grandi e marroni, la faccia persa in mezzo al pelo aggrovigliato. Si gratta. Io sto seduta lì, respiro il suo odore e mi chiedo se abbia le pulci. Alla fine allungo una mano e gli tocco la testa. Il pelo è arruffato e rigido. Gli tocco un orecchio sbrindellato, poi glielo tiro di scatto. Lui non batte ciglio. Ovvio, non è il suo vero orecchio. Gli do qualche pacca affettuosa sulla testa e gliela accarezzo. E sembra che gli occhi gli si sciolgano e gli si annebbino come succede ai cani quando sono felici. Poi mi fermo e gli do una spinta, poi un calcio, poi lo caccio via in modo che mio padre non lo trovi quando torna a casa dalla caccia. C'è un silenzio mortale. Lo sento ansimare e zampettare scomposto lungo il marciapiede per un sacco di tempo. E questo, dalla voce di Alice, era il primo brano tratto da appunto questa raccolta di racconti di cui stiamo parlando questa sera su Overbooking. Tra l'altro, volevo chiedere una tua opinione su questa cosa che sarà abbastanza naif che sto per dire. Quando ho letto questo racconto ai tempi, mi era venuto in mente un altro libro che mi è capitato di leggere che si chiama Leggende metropolitane, in cui venivano raccolte più o meno delle storie che popolari in America, e una di queste mi è sembrata molto simile, ossia è la storia di questa famiglia che va in vacanza in Messico, ritorno in California portando quello che all'inizio sembrava un bellissimo cricetino e alla fine esce che è una gigantesca nutria o un topo. Quindi c'è in qualche modo in un certo senso un aspettarsi qualcosa che poi non è, e sì, affezionarsi a qualcosa che... Assolutamente, ma a parte questo caso che abbiamo letto, quello che stai dicendo tu, poi nella narrativa popolare americana c'è tantissimo questo tema di scambiare una cosa per un'altra, affezionarsi a un animale che poi è un altro, e poi un padre, adesso facciamo dei riferimenti coltissimi, anche no, c'è il padre nobile di questa tendenza, è Jack London, in un bellissimo romanzo che consigliamo, già che ci siamo, che è Alla ricerca dello snark. Che è un libro estremamente interessante, che è tutto su questo argomento: confondere un animale con un altro, andare alla ricerca di un pesce che forse è uno squalo, shark e snark, l'unione di shark e qualcos'altro che adesso non ricordo, e quindi nel romanzo americano c'è molto questa cosa. Benissimo, allora andiamo adesso a leggere un qualcos'altro da questo libro. E sì. che cosa abbiamo scelto? Allora, abbiamo scelto un altro racconto estremamente particolare, si intitola Lettere di Steven, un cane, ad alcuni capitani d'industria. È un racconto veramente, anche questo, estremamente divertente e particolare, una serie di lettere che un personaggio scrive, un ingegnere scrive fingendosi cane. Scrive ad alcuni capitani d'industria, tra l'altro realmente esistenti. È come se io e te scrivessimo, che ne so, a Tronchetti Provera o altri, fingendoci dei cricetoni, non lo so. Che meraviglia. Quindi facciamolo, complimenti a facciamolo veramente. Complimenti a Dave Eggers, perché oltre ad essere un grandissimo scrittore è anche un grandissimo penso fumato fosse l'aggettivo migliore. Penso di sì, però andiamo a sentire una parte. Il 5 agosto del 2000, Daniel O'Mara, un ingegnere meccanico di Austin, nel Texas, ha inviato 20 lettere ad altrettanti amministratori delegati di alcune fra le aziende incluse nella speciale classifica delle 500 aziende dell'anno secondo il periodico Fortune. Qui di seguito ne pubblichiamo 5. Egregio dottor Thomas, immagino che lei sia una persona impegnata, quindi vengo subito al sodo. Recentemente ho scritto alcuni brani dal punto di vista di un cane di nome Steven e vorrei che lei ne leggesse un esempio. Eccone uno. Mi chiamo Steven e sono nato in una scatola di vetro su dei fogli di quotidiano tagliati a strisce. Ora sono qui, 5 anni dopo, e le mie zampe, che un tempo erano bianche come la carta, ora sono bianche come l'avorio. Ho camminato per tante strade e per tanti campi, ho visto un sacco di cose. Quante mani di bambino ho morso. Hanno un aspetto dilettevole e un gusto così saporito. Devo muovermi. Posso fare un salto di 1 chilometro. Sono un cane fatto così. Posso saltare 1 cavolo di chilometro. Sono un gran bel cane. Vedo i colori allo stesso modo in cui voi sentite il sibilo di un jet. Voglio trovare un buco piccolo, piccolo, piccolo, piccolo e attraversarlo come quel cazzo di Gandhi. Per ora è tutto. Daniel. Gentile signor Miller, lei non mi conosce e quanto sto per scriverle non la riguarda personalmente, ma non di meno necessito della sua piena attenzione. Ho preso, ormai da qualche settimana, a scrivere lettere a persone come lei, però dal punto di vista di un cane di nome Steven. Ecco una lettera di questa fatta, per lei. Mi chiamo Steven e sono nato subito dopo che i bambini sono tornati da scuola. Ho passato giorni ad abbaiare pur non sapendo perché stessi abbaiando. In quei giorni abbaiavo fino a diventare rauco e stanco, sapendo di non sapere perché abbaiassi, e tuttavia pensando per tutto il tempo che in un secondo momento sarei riuscito a capirlo. Ieri correvo sotto 100 altissimi olmi, piantati in fila. Correvo verso una spianata dove l'erba sotto il sole era verdolina e soffice, e mentre correvo con gli occhi vitrei per l'aria fredda ho pensato a mia sorella, che mi fu portata via tutti quegli anni fa, prima che le si aprissero gli occhi. Il mio pelo sembra carta vetrata, ma a toccarlo è magnifico. Ancora non so perché abbaio, in questo momento, dopo che è stato nuvoloso più o meno per una settimana. Mi sento bene, mi sento riposato, come se non volessi abbaiare mai più. Ma so che ben presto mi ritroverò ad abbaiare finché non mi viene la voce roca, incapace di smettere di abbaiare. Oh mio Dio, la gente mi fissa, come se dovessi morire da un momento all'altro. Per questo sto abbaiando. Beh, ora penso che sia tempo che lei torni al suo lavoro, signor Miller. Daniel. Io non finirò mai di ringraziare Alice che ogni settimana si presta a leggere cose. Prima di andare avanti con Nando e con delle ulteriori letture tratte dal libro di questa sera, un breve intermezzo musicale. Questi sono i Vampire Weekend. You've been checking on my facts and I admit I have been lax in double screening. What I say, it wasn't funny anyway. I stand corrected. .22 di Radio Sandonà, sempre in compagnia di Alvise, Matteo, Daniele, per questa ennesima puntata di Overbooking e soprattutto in compagnia di Nando, che ci sta presentando un libro da lui scelto intitolato The Burn Children of America e che è appunto una raccolta di racconti di autori emergenti e non, tutti accomunati dall'essere statunitensi, che nel 2000, Poi la stessa raccolta è stata ripubblicata nel 2009 con delle succose aggiunte. Nel 2000 appunto ci hanno presentato un po' quello che poteva essere un manifesto della nuova letteratura americana. Assolutamente, assolutamente. Io volevo anche precisare una cosa. Questo lavoro di Minimum Fax ha il pregio notevole di non essere semplicemente l'adattamento, la traduzione di una raccolta americana, ma è proprio un lavoro fatto da Marco Cassini e Martina Testa. Marco Cassini è il direttore editoriale di Minimum Fax, Martina Testa è una famosa traduttrice storica di David Foster Wallace e di tanti scrittori americani. E hanno effettivamente messo in piedi questo progetto che poi ha avuto un grandissimo successo all'estero. Infatti questo libro ha venduto i diritti praticamente in tutto il mondo, in America e in Inghilterra, è veramente entrato in classifica ed è diventato un testo quasi di riferimento per capire e approfondire la letteratura emergente americana. Quindi un grandissimo pregio a Minimum Fax e a Marco Cassini e Martina Testa, e anche per dimostrare, ho scelto anche questo libro per dimostrare che insomma in Italia si produce anche ottima letteratura e ottima editoria. Assolutamente sì. E andiamo avanti con la presentazione del libro leggendo un ulteriore passo che tratto da un altro racconto. Adesso leggiamo l'inizio di Una vera bambola, un racconto di Annie Holmes che citavamo anche prima. È il racconto di un bambino che si fidanza, esce con la Barbie di sua sorella, si innamora e hanno una storia insieme. Che meraviglia. Esco con Barbie. Tre pomeriggi a settimana, mentre mia sorella è a lezione di danza, porto Barbie via da Ken. Mi esercito per il futuro. All'inizio ero seduto in camera di mia sorella e guardavo Barbie, che viveva con Ken, posata su un centrino sopra il ripiano del comò. La stavo guardando senza guardarla veramente. La stavo guardando e a un tratto mi accorsi che mi stava fissando. Era seduta accanto a Ken, ma strusciava distrattamente la coscia, coperta dal pantalone beige, contro la gamba nuda di lei. Lui si stava strusciando, ma lei guardava me. «Ciao!» disse. «Ciao!» dissi io. «Mi chiamo Barbie!» disse. E Ken smise di strusciarsi contro la sua gamba. «Lo so!» «Tu sei il fratello di Jenny!» Annuì. La testa mi faceva su e giù come quella di un pupazzo con dentro un contrappeso. «Mi sta tanto simpatica tua sorella, è dolcissima!» disse Barbie. «Un amore di bambina!» Specie negli ultimi tempi, si mette sempre tutta carina e ha cominciato anche a farsi le unghie. Mi chiesi se Barbie aveva notato che Miss Perfezione si mangiava le unghie e che quando sorrideva i suoi incisivi erano coperti di minuscoli frammenti di smalto viola. Mi chiesi se sapeva che Jennifer colorava col pennarello viola i pezzi che restavano mordicchiati e scheggiati e poi a volte si succhiava le dita, così che non solo le restavano particelle viola di smalto sui denti, ma la lingua prendeva una strana sfumatura di violetto. «Senti», dissi, «ti andrebbe di uscire un po'? Prendiamo una boccata d'aria fresca. Magari ci facciamo due passi in giardino». «Volentieri», disse lei. La presi per i piedi. Suona strano, ma ero troppo impietrito per prenderla per la vita. La afferrai per le caviglie e me la portai via come un leccalecca. Appena fummo fuori, seduti sotto il portico di quello che io chiamavo il mio forte, ma per il quale mia sorella e mia madre usavano il nome di casetta in giardino, fui preso dal panico. Improvvisamente e incredibilmente mi resi conto che ero uscito con Barbie. Non sapevo cosa dire. Grazie ancora ad Alice per averci letto questo brano con una voce che noi non riusciremo mai ad avere, molto probabilmente. Sì, per colpa degli ormoni. Esattamente, credo. Sì. E... questa cosa, un'altra cosa interessante che io ho notato almeno leggendo questa raccolta di racconti riguarda più o meno il tema dei rapporti umani, ossia di una progressiva spersonalizzazione del rapporto umano, che secondo me è un tema che si ripropone in più di un racconto. Adesso potrei sbagliarmi, però leggendo ad esempio Americana di Don DeLillo vedo qualcosa di simile, o comunque vedo che diciamo che ci sono una specie di barriera, di barriere nei rapporti e nel concepire i rapporti e soprattutto propri della letteratura americana. Non so se mi sbaglio, potrei... No, io direi che assolutamente è vero. Bisogna anche notare che questo... poi a posteriori è sempre molto facile fare queste deduzioni, però questo libro esce alla fine del 2001, quindi dopo l'11 settembre. Per quanto questi testi siano tutti precedenti all'11 settembre, comunque noi sappiamo poi il periodo difficile che ha vissuto l'America, anche il periodo difficile dei rapporti, del raccontare anche il rapporto con l'altro, che è venuto dopo il 12 settembre. Però effettivamente anche prima, in questa raccolta, nei testi che sono raccolti in questo libro, si vede che qualcosa nell'aria è cambiato. Si vede già, e poi appunto nel post 11 settembre questa cosa si ingigantisce. La questione sta nel rapporto con il postmoderno, cioè voglio dire, questi autori sono la maggior parte autori che sono un po' figliocci, figliastri di molti autori postmoderni, come Lethem, come lo stesso Pynchon, come De Lillo, come insomma come molti altri, e quindi c'è una riscrittura di tutti i rapporti sociali, c'è una riscrittura di tutto del rapporto io-mondo. E adesso, senza buttarla troppo insomma in alto, comunque sì, effettivamente c'è una continua riscrittura, una rivisitazione continua anche come barriera nel rapporto fra me, gli altri, me, le cose. Perfetto, allora andiamo a leggere, perché purtroppo, come ogni cosa bella, questo programma dura poco, bella dal mio punto di vista, poi potete non condividere, e andiamo a leggere l'ultimo estratto dal libro di questa sera. Sì, andiamo a leggere l'inizio, la prima pagina di Odontofilia, che è un racconto di Julia Slavin, in cui si racconta di un rapporto di coppia in cui la fidanzata del protagonista un po' alla volta comincia a ricoprirsi di denti, comincia a coprire il proprio... emergono da ogni parte del suo corpo denti, e vediamo un po' il suo fidanzato come se la cava. Una volta ero innamorato di una donna a cui crebbero denti su tutto il corpo. Il primo fece la sua comparsa sotto forma di un puntino duro sull'ombelico. Si sviluppò velocemente in un dente vero, con il bordo seghettato e la corona, smaltato come una perla. Mi sembrava sexy, un piccolo gioiello nell'ombelico. Bastava che Helen si alzasse la camicia, ondeggiasse come la danzatrice di un harem, e io perdevo la testa. Poi un giorno tornai a casa dalla fabbrica e Helen mi chiamò dal piano di sopra. Era seduta ai piedi del letto, avvolta in un asciugamano, ancora bagnata e lucida dell'acqua della doccia. Alzò un braccio. Testai qua e là. Se teneva il braccio alzato, riuscivo a distinguere i contorni di una fila di incisivi superiori che premevano per spuntare, appena sotto la pelle. Mio Dio, pensai. La carne morbida sotto il suo braccio presto sarebbe assomigliata alla bocca di un coccodrillo. Mi disse che era un po' che le faceva male e le prudeva. Io le dissi di non preoccuparsi, non era nulla, le sarebbe passato. Riuscì addirittura a far sì che mi credesse abbastanza a lungo da addormentarsi, mentre io passavo tutta la notte in bianco a chiedermi che diavolo fare. Ma al mattino, quando mi graffiò la coscia con un molare che le era spuntato nella piega dietro il ginocchio, chiamai il dottor Manfred. Benissimo, questo racconto ha un che di... claustrofobico in un certo senso, me incuti timore questa cosa. Ci riconcilia con i rapporti con le nostre fidanzate, credo. Sì, quantomeno a loro non spuntano denti. Quando torneremo a casa questa sera ci penseremo, credo. Esatto, quando tornate a casa questa sera date una pacca in testa a vostro figlio, quelle cose lì. Esatto, e se sbaglio mi corrigerete. Esattamente. Okay. Allora, niente, come dicevo prima, il programma volge al termine, un equo ringraziamento a Matteo che mi aiuta a portare avanti questa avventura di overbooking, e a Daniele, che senza il quale non si andrebbe in onda. In questo momento lo vedo assolutamente distante da qualsiasi forma di radiofonia, però comunque sì, è impareggiabile aiuto come sempre. Non faccio altro che ricordarvi il numero di telefono per intervenire in trasmissione, che è lo 0421 560993, ma posso anche ricordarvi che tutto quello che riguarda il blog sarà pubblicato tutto quello che riguarda il programma sarà pubblicato nel nostro blog, che è bloverbooking.wordpress.com, e in questo blog troverete anche qualche delucidazione su quello che sarà il libro che andremo a presentare la prossima settimana. La prossima settimana Nando molto gentilmente è disposto ancora una volta a darci una mano, perché altrimenti il programma andrebbe a rotoli, e ci porterà un altro libro. Di cosa andiamo a parlare? Allora, la prossima settimana, se ci lasceranno ancora andare in onda, non ci arrestano prima, porterò qui in dono L'Uomo Verticale di Davide Longo, un autore molto importante per la nuova narrativa americana, scusate, italiana. Perfettamente. Detto questo, io vi lascio, vi ringrazio ancora per averci seguito durante questa trasmissione, vi rimando alla prossima settimana con una nuova puntata di Overbooking e, come ultimo contributo musicale, vi saluto con i Beirut. Ciao a tutti, alla prossima. Crashing in.